Benvenuti a tutti, nuovo appuntamento con NBA Week, la trasmissione settimanale in podcast sulla stagione NBA 2017-2018 su Radio Big World. Settimana bruttina anziché no a livello di infortuni, primo tra i quali quello accaduto negli ultimi secondi della sfida vinta contro Houston dai Pelicans per DeMarcus Cousins. Boogie stava giocando indubbiamente la miglior stagione della carriera, sia a livello statistico che a livello di consapevolezza. Come se non bastasse, New Orleans sembrava veramente aver ingranato anche a livello dei risultati nelle ultime settimane, e la rottura del tendine di Achille per lui apre scenari piuttosto scuri su differenti livelli. Il primo è inevitabilmente quello di squadra, in relazione al presente. I Pelicans, come detto, sembravano sempre meno Twin Towers e basta, e sempre di più una squadra. Adesso ha senso provare a andare sul mercato per coprire questa perdita, oppure arrendersi con il rischio di perdere in estate Anthony Davis? Sì, perché la questione riguardante il monociglio più famoso d'America è di assoluta attualità. È probabile, anzi quasi certo, che il fenomeno non cambierà squadra nella finestra di mercato in corso, ma in una squadra nuovamente priva di prospettive, quanto potrà essere disposto a restare? Ed infatti si è parlato di una trattativa in corso per l'arrivo di Nikola Mirotic dei Bulls ai Pelicans, apparentemente arenata al momento. Invece il terzo livello riguarda sempre il mercato e riguarda sempre l'estate, ma stavolta è circoscritto proprio al futuro di DMC. Cosa fai dopo un infortunio del genere se sei Pelicans? Gli offri alla cieca il massimo del contratto che, in condizioni fisiche ordinarie, avrebbe decisamente richiesto? Quanto potrà influire sul suo futuro un infortunio del genere, che di solito può risultare letale per i big men? Oltretutto, probabilmente la contrattazione sul rinnovo si terrà in un momento in cui non sarà dato sapere se Boogie avrà recuperato al suo meglio, anche a livello mentale, ma soprattutto fisicamente, considerando che si tratta di un lungo con un fisico ingombrante, ma con caratteristiche atipiche per la categoria, capace, come sappiamo, di muoversi con la grazia di un ballerino, di correre per tutto il campo, smazzare assist e recuperare palloni importanti, difendendo contemporaneamente il ferro e giocando a tutto campo, sia dentro che fuori dall'area. Chiunque firmerà Cousins lo farà con la paura di strapagare un giocatore che potrebbe non essere più quello precedente all'infortunio. E a qualsiasi cifra accadrà, per New Orleans ci sarà il dubbio morale di coprire cifre astronomiche o meno per cercare di convincere un potenziale franchise player che potrebbe, il condizionale improbabile ma d'obbligo, cambiare nettamente il suo gioco in conseguenza ad un incidente simile. Si tratta di una brutta, brutta, brutta storia. Stesso giorno, notizia di campionato concluso prima del tempo anche per Mike Conley, una delle point guard tendenzialmente più sottovalutate della Lega. Quest'anno protagonista per appena 12 gare in quel di Memphis, con medie pari a 17 punti, 4 assist per allacciata di scarpe. Conley ha reso pubblico che si opererà al tallone per risolvere un problema che lo affligge, pertanto lo rivedremo in campo nella prossima stagione. Stagione finita anche per Andre Robertson degli Oklahoma City, altra squadra che sembrava aver trovato la direzione per una continuità dei risultati e soprattutto di gioco per i quali la guardia rappresentava pedina segreta fondamentale, con le sue capacità difensive di primo livello ed il suo intelligente gioco senza palla, seppur con i suoi conosciutissimi limiti tecnici offensivi. Nella sfida contro Detroit, Robertson è fragorosamente caduto sul coccige nel tentativo di ricevere un alley-oop dal solito Russell Westbrook. La sensazione dal vivo è stata quella di una perdita di equilibrio in fase di salto, quasi come se fosse scivolato con il piede di slancio su una buccia di banana prima della terrificante caduta a terra, dalla quale non solo non si è rialzato, ma è apparso totalmente immobilizzato con le gambe. In realtà la situazione reale emerge in modo ancora più impressionante guardando il replay, visto che la ricaduta sgraziata da un salto mal avviato è causa di un evidente cedimento del ginocchio in fase di spinta. La diagnosi è rottura del tendine rotuleo e la sua stagione è ovviamente finita, proprio come quella di Cousins. Ah, tornando un attimo su DMC, essendo stato votato come starter della prossima partita delle stelle, si è immediatamente proceduto ad una sostituzione. Infatti, nei giorni seguenti alla registrazione della nostra ultima puntata di NBA Week, la discussione era stata monopolizzata dalle scelte dei coach e dai seguenti draft di scelta nella formazione delle squadre da parte parte dei capitani votanti Stephen Curry e LeBron James. Inutile dire che, al solito, le polemiche rispetto agli esclusi dalle selezioni delle riserve sono state copiose, seppur stavolta Damian Lillard appaia tra quelli destinati a scendere in campo allo Staples Center. Notevolmente contrariato, ad esempio, Andre Drummond, e teoricamente ha ragione, ma la NBA ci ha messo subito una toppa, come vedremo in seguito. Di fatto è oramai scontato che o si scelgono roster più ampi per questo tipo di partita, oppure è inevitabile che molti dei protagonisti di una stagione in corso siano esclusi, vuoi perché giocatori di realtà poco vincenti, sia perché superati nello stesso ruolo da numerosi altri giocatori provenienti dalla stessa conference. È il caso ad esempio di un Lou Williams semplicemente incredibile quest'anno, chiaramente destinato a restar dietro ai papabili di un Ovest che nel backcourt ha veramente tanti e variegati giocatori di livello. In ogni modo, per sostituire Cousins arriva un Paul George che sta onestamente giocando una stagione incredibile da secondo violino ad OKC, facendo registrare numeri importanti anche nella metà campo difensiva, che tra i Thunders non appare zona di applicazione costante per molti. Proprio a proposito di questo, probabilmente sarà il caso che la dipartita di uno specialista come il già citato e sfortunato Robertson venga sostituita prima della prossima deadline di mercato, se l'idea soprattutto è quella di provare quantomeno a lottare per la finale di conference ad Oklahoma City. Si è parlato di Courtney Lee oppure di Rodney Hood, anche perché la terza alternativa possibile, che era Avery Bradley, si è nel frattempo accasata in altri lidi, come vedremo in seguito. Rispetto alla partita delle stelle, staremo a vedere se a questo punto George partirà in quintetto in sostituzione di Boogie o se si opterà per qualcun altro nello starting five del team LeBron. In ogni modo, conoscerete già tutto rispetto ai giocatori scelti e alle composizioni delle squadre per una partita di cui saremo costretti a parlare copiosamente, quantomeno in seguito alla stessa, visto che dopo il weekend delle stelle la Lega si prende una manciata di giorni di pausa dalle partite più del solito. Rispetto proprio al weekend, invece, tra le mille questioni circostanti all'happening di Los Angeles, la più interessante appare al momento il rendezvous tra gli arbitri ed una rappresentativa dei giocatori. La situazione al riguardo sta seriamente diventando pesante, con polemiche continue e sempre più violente da parte dei giocatori in relazione alle scelte degli ufficiali di gioco in campo. Il nervosismo in effetti regna sovrano, in una stagione dove stiamo vedendo anche diverse occasioni di scontri fisici in campo e dove il gioco appare, almeno secondo il mio umile punto di vista, un tantino più duro nei contatti rispetto agli anni passati. In realtà non esiste però una ragione capace di spiegare tutto questo, pertanto il tanto sbandierato incontro risolutore tra arbitri e giocatori raramente produrrà qualcosa di tangibile nell'immediato. Dalla parte dei fischietti, intanto, è stata emanata una lista di regole da seguire per migliorare la situazione, come proposta ai rappresentanti dei giocatori, dove sostanzialmente si invita ad una maggiore attenzione, anche da parte degli allenatori, di quelle regole relative al cosiddetto rispetto del gioco, oltre alla volontà non solo di ridiscutere rispetto alle regole recentemente modificate, ma addirittura proponendo ulteriori training esplicativi per i novelli arbitri, soprattutto su come gestire situazioni spinose anche nei rapporti con quei giocatori più carismatici che ultimamente hanno alzato il livello dello scontro. Certo che nella lega dei replay center e dell'instant replay, dove le decisioni arbitrali appaiono quasi scientificamente provate e dove per anni si è lavorato sulla sportività dei comportamenti in campo, sentir parlare di necessità di lavorare al miglioramento del dialogo tra arbitri e giocatori appare un attimino bizzarro, quantomeno appare una involuzione repentina oppure una semplice vittoria dell'istintività dello sportivo. Tornando al basket giocato, nella sfida del sabato sera abbiamo visto scontrarsi la prima squadra per record ad ovest con quella ad est, cioè Golden State e Boston, e lo spettacolo non è stato assolutamente da buttar via. Seppur con un Jason Tatum tremendamente sottotono, ma ci sta, visto che il suo calo coincide con il proverbiale periodo di sfasamento medio per un rookie, cioè quello di metà stagione, e comunque il ragazzo ampiamente recuperato nelle partite a seguire, Boston ha lottato alla Oracle Arena fino alla fine, facendo intravedere una potenziale soluzione godibile ad una ipotetica finale senza LeBron James e i suoi Cleveland Cavaliers. E su questo argomento purtroppo torneremo più avanti, perché la soap opera fatta di lunghi coltelli in Ohio è ovviamente andata avanti malgrado un ritorno alla vittoria casalinga dei Cavs contro i Pacers. Restando per un attimo alla sfida della Oracle, lo scontro nello scontro tra Stephen Curry e Kyrie Irving ha rappresentato probabilmente il meglio che può capitare di vedere nella pallacanestro odierna a tutti i livelli. Senza perderci in statistiche, è giusto dire che Steph sta continuando a giocare una stagione veramente strepitosa ai livelli delle due nelle quali ha vinto il premio di MVP negli anni passati. Per quanto riguarda Kyrie Irving anche in relazione proprio a quello che sta accadendo a Cleveland. La point guard che da quest'anno veste il numero 11 sta dimostrando quanto decisivo fosse all'interno di una squadra troppo colpevolmente definita la squadra di LeBron in entrambi i lati del campo. Proprio il suo sostituto in quel del Mistake on the Lake, cioè Isaiah Thomas, ha finalmente parlato alla stampa in relazione alle problematiche di spogliatoio tra i vice campioni e non ha certo gettato acqua sul fuoco. Per quanto abbia negato il suo ruolo di capofazione anti Kevin Love, con poco successo per la verità, ha pensato bene di discolparsi rispetto alle accuse sui suoi problemi difensivi, sottolineando quanto i Cavaliers difendessero male ancor prima che esordisse nella stagione. E tecnicamente ha pure ragione, per quanto dal suo rientro le cose stiano andando pure peggio numericamente parlando. Inoltre, cosa piuttosto bruttina anziché no, ha retoricamente domandato cosa se lo siano preso a fare se il suo modo di giocare piaceva così poco all'ambiente ed anche ai tifosi. Della serie, io non posso essere nient'altro che Isaiah Thomas, rivendicando le mie scelte di tiro ed il mio possesso del pallone. Le percentuali miglioreranno con la pratica sul campo, ma non ho nessuna intenzione di cambiare il mio gioco. LeBron James in tutto questo si è chiuso in un mutismo piuttosto preoccupante in pubblico, per quanto le testimonianze dei suoi sfoghi piuttosto rabbiosi siano state ben descritte in giro. E se Cleveland usasse proprio il piccolo Isaiah Thomas come merce di scambio nella deadline di mercato, sarebbe qualcosa di seriamente clamoroso, onestamente. Comunque, nella vittoria contro i Pacers, lontanissima da poter essere definita scacciacrisi per gli evidenti problemi difensivi ed offensivi confermati malgrado la W finale, si è rivisto finalmente un Derrick Rose capace di contribuire in positivo nel ruolo di comprimario specialista per il quale evidentemente è stato firmato in estate. Speriamo che la fortuna lo assista e che possa proseguire migliorando la sua condizione. A livello di polemiche, comunque, anche il resto della Lega non sta assolutamente male. Infatti, ad esempio, a Washington le tensioni nello spogliatoio sono all'ordine del giorno ed il carattere di John Wall non aiuta assolutamente. Anche a San Antonio si parla di grandi tensioni tra un Kawhi Leonard ancora fuori e Greg Popovich, si dice proprio in disaccordo con l'allenatore, colui che lo sta costringendo, a quanto appunto si racconta, a non giocare in questa stagione al momento. E chissà che non possa decidere lo stesso Kawhi proprio di cambiare squadra, magari a fine stagione. E sempre rispetto alla deadline di mercato, il presidente degli Charlotte Hornets, che risponde al nome di Michael Jeffrey Jordan, ha tecnicamente fissato il prezzo per Kemba Walker, che si dice sia comunque sul mercato malgrado le precedenti smentite. Date un All-Star a Jordan e lui vi darà in cambio Kemba. Ora, il già detto Isaiah Thomas non è stato esattamente selezionato per la partita di Los Angeles, ma uno scambio tra i due potrebbe anche starci, anche se la convivenza tra Kemba e LeBron sarebbe tutta da dimostrare. Ma del resto, rispetto a quella evidentemente priva di affinità tra il re e l'ex Celtics, ci sta che tentar non faccia così male. Anche perché, per chiudere sulla questione dei Cavaliers, più la situazione procede deteriorandosi a tutti i livelli, e più appare probabile trovare LeBron James l'anno prossimo in quel di Houston o in quel di Philadelphia, oppure, onestamente faccio il tifo tremendamente per questa opzione, in quel di Los Angeles sponda Lakers. Comunque, nel frattempo si sono sbloccate le trade, esattamente nella notte tra lunedì e martedì, ed i Clippers hanno iniziato quella prevista opera di smantellamento attuale, per quanto nelle ultime ore la trade DeAndre Jordan Tristan Thompson con Cleveland sembra passata di attualità, con quest'ultimo riportato in quintetto in Ohio. Lo scambio riguardante i Clippers è stato con Detroit e si è mossa una pedina non da poco, un ex All-Stars considerato franchise player ad inizio anno. Si tratta di Blake Griffin. Proprio lui insieme a Willie Reed si accasa nella Motor City, dove farà coppia con il centro Andre Drummond. In cambio arrivano a Los Angeles tre buonissimi giocatori, Tobias Harris, Avery Bradley e Boban Marjanovic. In realtà, come già detto, si vociferava di un potenziale approdo proprio dell'ex Celtic in quel di OKC nelle ore precedenti a questo scambio, per tamponare la falla difensiva causata dalla già citata perdita di Andre Robertson. Ed invece un giocatore offensivamente un po' in calo dall'inizio la stagione, ma indubbiamente di indiscutibile valore, si accompagna a quel Boban Marjanovic la cui produttività risulta ottimale se si valuta nei minuti a disposizione in campo ad oggi, ed a un Tobias Harris che per molti aveva iniziato la stagione giocando a livello di All-Star in flessione al calare dei risultati di squadra dei Pistons. Insomma, tutto sommato un buon pacchetto di giocatori in cambio di una stella come Griffin, che a Detroit non cambierà probabilmente le sorti di una squadra che baserà sulla coppia sotto canestro il suo futuro prossimo, ma con l'imperativo di ricostruire tutto il resto. Vediamo cosa succede a Los Angeles dopo questa mossa, perché le attenzioni sono tutte dedicate, come dicevamo, proprio a DeAndre Jordan, alla sua eventuale partenza ed a quello che potrebbe arrivare in cambio, per capire in che direzione può andare la rifondazione o ricostruzione di quella che un tempo era la seconda squadra di Los Angeles e che potrebbe tornare ad esserlo, oggi condotta da un sesto uomo di lusso come Lou Williams, anche lui dato per partente. Comunque, aggiornamenti dell'ultimo minuto raccontano di una frattura alla mano che terrà fuori proprio Kevin Love per almeno 2 mesi, una tegola pesante per Cleveland che ulteriormente dovrà attivarsi nel modo più rapido possibile sul mercato. Vedremo anche chi lo sostituirà all'All-Star Game, ancora non è stato comunicato, ma in relazione alla stagione si può anche dire che non ce ne frega praticamente niente. Anche John Wall sarà fuori per 2 mesi causa operazione al ginocchio ed anche per Washington si mette malino una stagione che per la verità non stava carburando al meglio. Anche qui per la serie chi se ne frega sarà sostituito proprio da Andrew Drummond nella partita delle stelle. Da segnalare inoltre, nella ultima notte attiva prima della nostra registrazione, che è al solito di mercoledì pomeriggio, il rientro con 15 punti di Danilo Gallinari in quel di Los Angeles sponda Clippers e la clamorosa tripla doppia di James Harden con 60 in materia di punti segnati, prima nella storia della Lega. Benissimo. Con questo anche questa puntata di NBA Week giunge al termine, in un momento piuttosto turbolento della stagione, come è giusto che sia la metà superata di un campionato in tutti i sensi. Al solito vi ricordo che potete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook che si chiama NBA Week, dove abbiamo iniziato a pubblicare anche note di approfondimento testuale anche e soprattutto su storie del passato della Lega. Per ascoltarci comunque gli appuntamenti settimanali restano i seguenti per il 2018 ovviamente. Tutti i venerdì sera sul flusso streaming di Radio Big World, tutti i sabati mattina sul canale YouTube di Belli 13, tutte le domeniche pomeriggio alle 18 in streaming su Radio Valdarno. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo la settimana prossima per NBA Week.